notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Un'Europa meno burocratica e più vitale. Prima le riforme, poi il nome del presidente della Commissione. Così Renzi in due vertici bilaterali con Merkel e Cameron. L'inchiesta sul MOSE è più grave di quella su Expo, dice il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone. Il ministro della giustizia si dice intristito ma non stupito. Secondo Confcommercio ci vorranno 11 anni perché i consumi tornino ai livelli pre-crisi. Sangalli dice che il combinato di IMU, Tari e Tasi è letale per le imprese. Nelle mani di Draghi, un'altra volta, in corso il direttivo della Banca Centrale Europea che dovrebbe decidere misure contro il rischio deflazione. Roma a rischio caos. Nella giornata di domani si fermano tutti i dipendenti pubblici per protestare contro la revisione dei salari accessori. Il sindaco Marino si dice sbigottito. Prova triste per l'Italia in vista dei mondiali, solo un pareggio con Lussemburgo, 7 giorni al match di apertura, 9 alla prima partita della nazionale di Prandelli. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Per scriverci come sempre effettogiorno@radio24.it, mi potete scrivere su Twitter se volete, mi trovate Simone Spezia, c'è anche il numero di SMS come sempre 349-238-6666. Ma prima di iniziare dai vertici bilaterali di Renzi di questa mattina, c'è una notizia battuta pochi istanti fa dalle agenzie. L'Italia passa il primo esame del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla riduzione del problema del sovraffollamento carcerario. Nella decisione adottata oggi, il Comitato dei Ministri riconosce i significativi risultati già ottenuti, quindi una promozione appunto sul tema del sovraffollamento delle carceri. Vedremo di tornarne a parlare nel corso di Effetto Giorno. Intanto andiamo a Bruxelles e parliamo di queste trattative per la composizione della nuova Commissione Europea e dei vertici bilaterali del Presidente del Consiglio con l'inviato del Sole 24 Ore Gerardo Pelosi. Gerardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la situazione è in questi termini. Oggi, seconda e ultima sessione della G7, un G7 appunto che ritorna nella sua formato originale dopo l'esclusione della Russia. Questo era un vertice G8 che si doveva tenere a Sochi e, come è noto, dopo la vicenda dell'Ucraina si è deciso, i sette hanno deciso di riproporre il formato iniziale del G7. Obama nel suo giro europeo è venuto qui dalla Polonia, stasera stessa sarà a Parigi e domani parteciperà alle manifestazioni, alle cerimonie per gli sbarchi, il D-Day, lo sbarco in Normandia, i 60 anni. Che cosa c'è da dire? Stamattina Renzi ieri aveva già avuto alcuni contatti, aveva parlato con Hollande e oggi ha avuto contatti, un bilaterale, con la cancelliera tedesca e con Cameron. Al centro ovviamente il problema delle nomine. La situazione al momento è una situazione di stallo. Uno stallo che in un certo senso favorisce il Presidente del Consiglio italiano che tra qualche settimana, il 1° luglio, assumerà l'incarico di Presidente di turno del Consiglio europeo e quindi avrà un ruolo anche ufficiale, istituzionale, per facilitare il processo decisionale che dovrà portare alle nomina del Presidente della Commissione al posto di Barroso, Presidente del Consiglio europeo al posto di Van Rompuy, Presidente dell'Eurogruppo e Presidente dell'Alto Rappresentante della Politica Estera, un po' il Ministro degli Esteri dell'Unione Europea. Queste sono le cariche in gioco. Sì. Di cosa si sta discutendo in questo momento? Lui ripete in continuazione nomina assunto consequentia rerum, un latinismo tratto da Giustiniano, che vuol dire prima si decidono i programmi e poi i nomi delle persone che devono attuare quei programmi. Allora, il problema di cui si discute è la creazione di un documento, la messa a punto di un documento che fissi in pochi punti le priorità della nuova Europa, della nuova legislatura, sulla quale si dovranno impegnare i paesi, tutti i paesi, per poi decidere i nomi su quei nomi poi si dovrà andare ovviamente alla verifica del Parlamento del europeo, Parlamento europeo, del Parlamento europeo. Io ti ringrazio intanto per questo aggiornamento, ringrazio Gerardo Pelosi, inviato a Bruxelles del Sole 24 Ore. È proprio del semestre europeo che si va ad aprire in luglio, vogliamo parlare adesso. Il punto di Stefano Folli. Ed eccoci Stefano. Ecco la sigla. Ciao, sì, ecco, è arrivata la sigla e sei arrivato tu. <qua. ride> Allora, sotto che insegne si apre questo semestre, Stefano? Certamente ci sono enormi difficoltà e il voto europeo ha dato all'Italia uno slancio positivo, perché insomma tutto sommato è stato un voto di grande fiducia nell'Europa nonostante tutto, e però altri paesi sono profondamente provati al loro interno, pensiamo alla Francia, all'Inghilterra, e quindi questo aumenta le difficoltà del semestre italiano, che ha come punto diciamo di prioritario quello di allentare le politiche dell'austerità economica. Questa è la vera priorità che si è dato a Renzi, però questo incrocia indubbiamente il problema delle nomine. Il problema delle nomine non è soltanto una conseguenza dei programmi, come dice astutamente Renzi, per coprire anche un po' la difficoltà di un accordo, ma è a questo anche che si lega moltissimo del volto innovativo oppure no, del volto conservativo che l'Europa in questo semestre potrà assumere. È stato fatto il nome della Lagarde, l'ha lanciato la Germania, è un nome che sarebbe interessante, romperebbe gli schemi, oppure potrebbe essere Juncker, che invece è un po' il nome della continuità. È chiaro che l'Italia ha bisogno di non apparire una presidenza, quella italiana, che accentua la continuità. È chiaro che Renzi ha bisogno di novità, sia sul piano dei nomi, sia sul piano dei programmi, quindi dei contenuti, ma tutto questo è difficile, è l'inizio di un percorso non semplice per il nostro Premier, che però insomma ci mette come sempre il suo dinamismo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto io ti ringrazio Stefano Folli e vi aggiorno anche sulle parole del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan in una conferenza stampa congiunta al termine dell'incontro con il Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Crescita e occupazione sono obiettivi prioritari per l'Unione Europea, dice, non ci sono scorciatoie, bisogna sfruttare gli strumenti a disposizione, e dice anche che l'Italia è consapevole che i tassi bassi sono una finestra di opportunità, di tassi, di quelli in realtà decisi dalla BCE, parleremo tra un attimo, perché poi oggi è prevista, anzi è in corso una riunione del direttivo da questo punto di vista molto importante. Però veniamo alle vicende italiane, le vicende di corruzione, le inchieste di Venezia, il punto di oggi. Inizieranno già dalle prossime ore i primi interrogatori delle 35 persone arrestate ieri nell'inchiesta giudiziaria sul MOSE che scuote Venezia. 3 anni di indagini hanno portato alla luce un sistema fatto di fondi neri e tangenti che vede coinvolti imprenditori e politici di primo piano come il sindaco di Venezia Orsoni e l'ex governatore veneto Galan. Secondo la procura, molti dei politici e dei funzionari che figurano nell'inchiesta avrebbero ricevuto dei veri e propri stipendi in nero dal comitato di affari che gestiva i lavori per la realizzazione del sistema di dighe mobili che dovrebbe salvare Venezia dall'acqua alta. Per il neo presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Cantone, quello che sta emergendo è un sistema molto inquietante, ancora più grave di quello già grave venuto alla luce per l'Expo di Milano. Secondo Cantone è necessario ripensare il sistema degli appalti, ma occorre anche una svolta politica e culturale. All'Authority da lui guidata guardano ora il governo, il ministro della giustizia Orlando, che si dice intristito ma non stupito dall'inchiesta sul MOSE. Basta con le procedure eccezionali, basta con i percorsi emergenziali. Dove non c'è concorrenza e non c'è mercato è più facile che si crei l'opacità. Abbiamo delle leggi, facciamole funzionare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La Tangentopoli veneta nasce da un peccato d'origine del MOSE, quello che spiega Renzo Mazzaro, giornalista, autore del libro I padroni del Veneto, editore La Terza, l'intervista di Valentina Furlanetto. Tutti lo sapevano dall'arresto di Biagioso Baita del 23 febbraio 2013. Il secondo botto è l'arresto di Giovanni Mazzacurati, presidente da 30 anni e passa del Consorzio Venezia Nuova, arresto che avviene il 13 luglio 2013, cioè l'anno scorso. Da quel momento lì ci sono 400 pagine secretate con i nomi che questi magistrati hanno difeso veramente con i denti. Cioè, ci sono storie che non sono ancora emerse, ma per esempio io conosco uno dei PM, si portava a casa tutte le sere il materiale, le carte, le nascondeva in mezzo dividendole come si smonta una pistola, mette un pezzo di qua, un pezzo di là, così metteva una chiavetta da una parte e un'altra dall'altra per evitare che anche nell'ipotesi di subire un furto andassero persi i documenti. Cioè, questo è il livello con il quale hanno lavorato i magistrati. Qui erano tutti a libro paga, anche questa è una cosa incredibile, cioè erano stipendiati annualmente con stipendi da 300, 400, 500 mila euro, un milione. C'era sentore che questa grande opera del MOSE funzionasse un po' da bancomat? No, quello che era noto a tutti quelli che volevano guardare era che poche persone, poche imprese, sempre le solite, facevano tutti i lavori. Il MOSE aveva come caratteristica e ha come caratteristica una, come dire, un peccato originale. Cioè, il MOSE nasce con una legge nel 1984 che istituisce il consorzio come ente che fa tutto lui, cioè pensa agli studi, alla progettazione e all'esecuzione. In pratica viene annullata qualunque possibilità di concorrenza. Invece il presidente della regione Zaia è del tutto estraneo, subito ha tolto le deleghe all'assessore, chissà che era il suo braccio destro fino a ieri, no? Luca Zaia in qualche modo è chiamato oggi a rispondere del fatto che si apre una falla dentro la sua giunta. In qualche modo bisogna interrogarsi su questo punto. E c'è un'altra inchiesta che è un po' passata sotto traccia in questi ultimi giorni, è quella sull'Expo, e ci sono novità anche da questo fronte. Angelo Paris non ha preso un soldo per turbare gli appalti. Si dava da fare l'ex direttore acquisti di Expo per far arrivare a chi di dovere i criteri con i quali sarebbero stati assegnati i contratti. In cambio avrebbe ottenuto quelle coperture che gli avrebbero garantito la carriera. Sempre più in alto, fino a Infrastrutture Lombarde. Interrogato anche ieri, Paris ha ammesso di essersi impegnato per far assegnare l'appalto da 67 milioni di euro per le architetture di servizi in vista di Expo all'imprenditore vicentino Maltauro. Ha confermato il tentativo di turbare una gara per i parcheggi dell'esposizione e poi ha aperto anche il capitolo dei padiglioni destinati ai paesi stranieri. Anche quelli, secondo Paris, erano stati spartiti. Ancora il nome di Maltauro e due cooperative, la Vidiria e la CMC di Ravenna. Paris ha raccontato dell'idea di Frigerio di suddividere in lotti la realizzazione dei padiglioni, un affare tra i 30 e i 60 milioni, per poi affidarla a imprese amiche. Un'idea di cui Paris avrebbe parlato poi con i vertici di Expo, ricostruzione smentita in una nota da Expo S.p.A. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono i dati adesso che arrivano dall'Assemblea di Confcommercio, non solo i dati ma l'attacco soprattutto sulle tasse locali del presidente Sangalli. Alessandra Schepisi ha seguito l'Assemblea per noi. Alessandra, buongiorno. Un quadro a tinte fosche, quello presentato dalla Confcommercio. La ripresa è lontana, serviranno più di 11 anni per tornare a livelli pre-crisi, si amplia il divario nord-sud, solo nei primi tre mesi del 2014 hanno chiuso i battenti oltre 12.000 imprese e le nostre possibilità di crescita, detto Sangalli, sono inferiori a quelle già esigue di qualche anno fa. Dunque avanti tutta con le riforme, a partire dalla spesa pubblica e il fisco. Su questo la Confcommercio avverte il combinato disposto tra tasi, tari e IMU rischia di essere letale per le imprese, ma c'è anche fiducia sulla nuova stagione politica di Renzi e del suo governo, che dice Sangalli ha convinto molti, ma parole di ottimismo le ha usate soprattutto il ministro per lo sviluppo economico, questa volta ha detto Federica Guidi, ci sono tutte le condizioni per tornare a crescere. Il ministro che ha poi annunciato il suo impegno a tenere aperti i negozi così come le fabbriche, perché quello delle troppe saracinesche aperte è un dramma, e ha assicurato che l'annunciato sconto in bolletta del 10% sarà esteso ad almeno il 70% dei commercianti. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Si diceva, le nostre prospettive, non solamente quelle italiane, legate anche naturalmente alle decisioni della Banca Centrale Europea. È in corso il direttivo e le comunicazioni arriveranno alle 13.45. Intanto le aspettative con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, c'è molta attesa perché la Banca Centrale Europea dovrebbe finalmente passare dalle parole, ne ha spese molte in questi mesi, ai fatti. Alle 13.45, come hai già detto, annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse, che comporterà probabilmente un taglio di 10 o 15 punti base e anche la riduzione in territorio negativo dei tassi sui depositi che le banche detengono presso la BCE. Ma non finisce qui, perché poi alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di Draghi e si prevede che il Presidente della BCE annunci altre misure, presumibilmente qualche misura sulla liquidità volta a far ripartire il credito, che come sappiamo scarseggia soprattutto in paesi come Italia e Spagna e soprattutto per le piccole e medie imprese. Ci ricollegheremo con te come sempre quando c'è il direttivo della Banca Centrale Europea, Alessandro, subito dopo America 24 per avere proprio le notizie appena giunte. Intanto il traffico. È una notizia appena battuta dalle agenzie. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle saranno chiamati entro fine giugno a dire la loro sulle alleanze in Europa. A riferirlo al termine di oltre un'ora e mezza di vertice nella sede milanese dello studio Casaleggio sono stati i capigruppo di Camera e Senato. L'inchiesta sul MOSE è più grave di quella su Expo, dice il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone. Il ministro della giustizia si dice intristito ma non stupito. L'Italia passa il primo esame del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul sovraffollamento carcerario. Nella decisione adottata oggi si riconoscono i significativi risultati già ottenuti. Un'Europa meno burocratica e più vitale, prima le riforme e poi il nome del Presidente, così Renzi in due vertici bilaterali con Merkel e Cameron. E più avanti, nel corso di Effetto Giorno, parleremo anche dell'Italia, della prova, dell'ultima prova, quella di ieri, un po' triste, prima dei mondiali. Intanto però vogliamo parlare di Roma e dello sciopero proclamato per domani dai dipendenti pubblici. Natale Di Cola, segretario regionale Lazio, Funzione Pubblica CGIL, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E bentornato, anzi, perché è già stato il nostro ospite. Allora, io vorrei capire innanzitutto perché scioperate, perché da quel che ho compreso io, l'idea dell'amministrazione capitolina è semplicemente di, come dire, di rivedere il sistema, anche sulla base di una serie di raccomandazioni che sono arrivate non ultime dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ce lo spiega perché scioperate? Noi scioperiamo perché, innanzitutto, dopo un anno di insediamento dell'amministrazione Marino non possiamo annoverare nessun successo sulle politiche del personale. Nulla riguardo alle nuove assunzioni, nulla sulle tante promesse elettorali, dalla valorizzazione del personale alla valorizzazione del merito. In più, inspiegabilmente, il sindaco Marino ha deciso di mettere in discussione anche il salario dei dipendenti, dicendo che ci sono delle relazioni del MEF che parlano di tutti i problemi di Roma e decidendo di partire solamente accanendosi sulle povere retribuzioni dei dipendenti pubblici. Non si parla delle società, non si parla dei grandi dirigenti, ma si cerca di nascondere dietro una nuova riorganizzazione un presunto taglio. Però Di Cola, mi scusi, c'è anche il famoso rapporto, tanto se ne è discusso, c'è un rapporto dell'ispettorato del Ministero dell'Economia e delle Finanze proprio sui salari accessori, perché di questo si sta discutendo, no? Non si sta discutendo dei salari normali, ma di quelli accessori, che parla di varie illegittimità nell'erogazione di premi e di indennità al personale. Qua ci sarà pur da rimettere mano, no? Assolutamente sì, per questo c'è stata una grande mobilitazione dei lavoratori che ha portato alla circolare del Ministero interministeriale, che decide proprio, e oggi alle 11 è in corso la riunione, starà affrontando tanti dei rilievi che in tutta Italia sono stati posti, che riguardano l'erogazione del salario accessorio. Ma proprio il Ministero e il Governo avevano detto: nel frattempo che noi decidiamo e troviamo gli indirizzi che vi daremo, poi continuate a erogare i servizi, perché di questo si tratta, il salario accessorio serve ad erogare i servizi, e dopo vi adeguerete a questa normativa. Inspiegabilmente invece la Giunta Marino ha deciso che il termine era il 31 di luglio e che entro quel termine tutto doveva essere rivisto, senza dare certezza sulle retribuzioni. Sì, Di Cola, però mi perdoni, ci sono anche dei tempi, è anche comprensibile che un'amministrazione comunale voglia chiudere in tempi certi un accordo con i sindacati, non è che lo potete tenere appeso fino a dicembre, no? Noi è dal primo giorno in cui si è insediata la Giunta che chiediamo dei progetti di rilancio. Per poter fare gli accordi ci vogliono i progetti chiari. Qui non stiamo parlando di un accordo o dell'apertura di un servizio. Noi stiamo parlando di un'articolazione di tantissimi comparti per 24.000 dipendenti, che è il frutto di 10-15 anni di accordi, leggi e normative. Vorremmo ricordare che ancora non c'è il bilancio approvato, perché anche se il sindaco dice che ci sono i soldi, non c'è un bilancio approvato e quindi fino a quando è approvato sono soltanto, diciamo, disposizioni. E dall'altra diciamo che per cambiare le cose ci vuole il consenso dei lavoratori e anche dei progetti che siano recepiti dai cittadini, perché non vorremmo che, come viene raccontato, perché non c'è in questi progetti nessun miglioramento. Mi scusi, quindi... lo sa che qualcuno gliela può contestare quella cosa, questa cosa che ci vuole il consenso dei lavoratori per prendere delle decisioni per quanto riguarda i salari accessori, specie, mi scusi, in una condizione finanziaria come quella della capitale? Vi do una notizia utile: il 60% dei dipendenti del comune ha preso il bonus di Renzi, e questa è un'ottima notizia perché finalmente è arrivata qualche euro in più nelle tasche dei lavoratori. Questo dimostra che sono lavoratori poveri e anche col salario accessorio hanno un reddito molto basso, quindi i problemi del comune non stanno tra i lavoratori che hanno degli stipendi molto bassi e che non hanno il contratto rinnovato da oltre 5 anni. Dopodiché, quando parliamo di consenso, il consenso è per il funzionamento dei servizi, perché vi assicuro che la demoralizzazione e anche le aspettative tradite stanno avendo un effetto deflagrante tra la gente e tra i lavoratori, che ogni giorno, nonostante tutto, garantiscono i servizi, perché altrimenti ci verrebbe da pensare perché domani si paralizza la città se questi dipendenti non fanno nulla. La verità è che questi dipendenti tutti i giorni, con dei salari molto magri, con l'opinione pubblica in molti casi avversa, ma in molti casi invece, come sta accadendo, che ci sostiene, perché tantissimi genitori e famiglie stanno sostenendo questa vertenza, i lavoratori domani diranno basta con queste politiche. Noi siamo disponibili al confronto e lo dimostriamo in ogni caso, però ci vogliono idee e progetti che vadano per migliorare la città e garantire i servizi e far avere delle sa che il blocco della città non sarà molto popolare. Lei mi dice ci saranno tante famiglie che ci sostengono, ma ci saranno anche tanti che saranno imbestialiti, Mi dispiace per i cittadini che saranno imbestialiti, però vorrei ricordare che quando un lavoratore decide di scioperare, decide di rinunciare a una parte del suo salario. È l'unico strumento che ha il sindacato per manifestare il proprio dissenso, è quello garantito dalla Costituzione, cioè, come previsto dalle norme, scioperare pacificamente e andare in corteo e dichiarare il proprio dissenso. Senta, l'ultima domanda che le volevo fare ci arriva da un ascoltatore, Fabrizio da Salerno, che dice: sono sbalordito, parla di nuove assunzioni al Comune di Roma quando la città è in dissesto. Io rispondo al vostro ascoltatore che se non assumiamo le maestre, no, perché poi non si capiscono i problemi, se non si assumono le maestre e non si può garantire il servizio di asilo nido, il comune deve esternalizzarlo e magari darlo a un privato, e tutti gli studi ci dimostrano che costano di più. Quando noi parliamo di assunzioni mirate che servono a coprire il turnover, cioè una persona va in pensione, una persona viene assunto. Oggi, per le leggi dello Stato, 10 persone vanno in pensione, 2 vengono assunte. Vorrei ricordare sempre al vostro telespettatore ascoltatore, che 5 anni fa i dipendenti del comune erano 32.000, oggi sono appena 24.000. Allora, grazie a Natale Di Cola, segretario regionale Lazio, funzione pubblica CGIL, per essere tornato a noi. Abbiamo cercato anche il sindaco Marino, ma in questa giornata, ve lo diciamo subito, era impegnato perché c'era il consiglio di amministrazione di Acea. Tra l'altro, notizia di poco fa, ha approvato la riduzione da 9 a 7 dei componenti del consiglio di amministrazione, con un taglio dei costi, così viene riferito dalle agenzie, del 70%. Grazie Di Cola, e noi restiamo a Roma, però ci spostiamo in Parlamento perché sta più o meno per arrivare la fiducia sul decreto IRPEF, Vincenzo Miglietta. Sì Simone, è così. Il governo questa mattina ha posto la fiducia sul provvedimento, questo secondo Palazzo Chigi per scongiurare l'assalto degli emendamenti, circa 700, visto che il testo deve essere convertito in legge entro il 25 giugno e deve affrontare ancora il passaggio alla Camera dei Deputati. In questo momento c'è la cosiddetta prima chiama, anzi questa è finita, si sta andando alla seconda chiama, quindi tra qualche minuto il voto. Dicevamo delle polemiche all'interno della maggioranza, ma anche dell'opposizione. coalizione, in particolare nella maggioranza. Il nuovo centrodestra ha cercato, Simone, sino a ieri di estendere il bonus da 80 euro alle famiglie numerose monoreddito con redditi superiori ai 26.000 euro. Tutto ciò senza successo, come per gli incapienti e le partite IVA. La questione viene infatti rimandata alla legge di stabilità per il 2015. E poi, Simone, ecco le novità, poche in quelle inserite qui a Palazzo Madama, in un testo rimasto comunque solido nei suoi cardini fondamentali. Abbiamo detto del bonus 80 euro che resta come uscito da Palazzo Chigi, lo stesso per l'IRAP, non ci saranno ulteriori tagli. Vi è invece il rinvio del pagamento della TASI al 16 ottobre nei comuni che non hanno deliberato l'aliquota e che dovranno farlo entro il 10 settembre. E poi stop ai cosiddetti affitti d'oro, per la RAI si conferma il taglio di 150 milioni. E poi infine, Simone, una novità utile da sapere ora che siamo alla vigilia delle vacanze estive: raddoppia il costo per il rilascio del passaporto, ma non si dovrà più pagare la tassa annuale di rinnovo del documento per l'uso fuori dai paesi dell'Unione Europea. Allora, grazie Vincenzo per questi aggiornamenti e naturalmente anche per le notizie utili. Mi rivolgo all'ascoltatore che ci scrive a proposito di un dirigente, diciamo, di una grande controllata del Comune di Roma, e ci scrive via SMS lo stipendio, che su queste cose purtroppo abbiamo bisogno di controverifiche e quindi l'SMS non lo posso leggere, ma è molto interessante. Il calcio e la nazionale. Che figuraccia col Lussemburgo, non si vince più, chissà ai mondiali. Come finirà in Brasile non lo sa nessuno, diffidate degli esperti, ma una cosa si può dire con certezza, che questa vigilia è stata perfetta. L'antipatica polemica sullo stipendio di Prandelli, l'imbarazzo per l'esclusione di Rossi, l'infortunio di Montolivo e due scialbi pareggi prima della partenza. Solo la nazionale di Sacchi 20 anni fa andò peggio, perdendo col Pontedera, e infatti negli Stati Uniti l'Italia andò in finale. Insomma, la congiunzione astrale è straordinaria per una buona riuscita, non ultime le critiche dei giornalisti sportivi che, come noto, non la azzeccano mai. Certo, qualcosa ci manca, uno scandalo come quello di Calciopoli alla vigilia di Berlino nel 2006, con l'acida arroganza di Lippi, o il gossip sull'amicizia tra Rossi e Cabrini in Spagna nell'82, ma non si può avere tutto. Per come siamo fatti noi italiani, specialisti nel dare il meglio solo dopo aver dato il peggio, tutto è pronto per andare lontano. Se poi fossimo anche bravi sarebbe perfetto, ma da quando in qua vince il migliore? Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La pausa, poi la borsa e poi più avanti torneremo a parlare di Mose e di Expo. Lo faremo con Sergio Santoro, che è presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, proprio per capire come si possono riformare le cose per rendere il sistema più trasparente, per favorire di meno la cosiddetta area grigia. Pausa. L'inchiesta sul Mose è più grave di quella su Expo, dice il presidente dell'autorità anticorruzione. Un'Europa meno burocratica è più vitale. Prima le riforme, poi il nome del presidente. Così Renzi in due vertici bilaterali con Merkel e Cameron. Secondo Confcommercio ci vorranno 11 anni perché i consumi tornino ai livelli pre-crisi. Roma a rischio caos nella giornata di domani, si fermano tutti i dipendenti pubblici per protestare contro la revisione dei salari accessori. È il momento della borsa. M come miglioramento continuo, M come module block. Vi presenta Borse in diretta. Più 0,85 per il FTSE MIB, più 0,75 per il FTSE All Share. Complessivamente positive le piazze finanziarie europee. Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Detto che qualsiasi cosa commentiamo potrebbe essere smentita tra 10 minuti, quando arriveranno le decisioni di Draghi e della BCE. Ah sì, assolutamente, anche se bisogna dire che i mercati negli ultimi giorni hanno un po' scontato quello che è ormai un allentamento monetario che è annunciato da parte della BCE. Comunque c'è grande attesa, oggi i mercati hanno iniziato in modo molto timido, poi con il passare delle ore sono arrivati gli acquisti, come ricordavi tu, Milano è la migliore per il momento, soprattutto grazie alle buone performance delle banche, guadagna quasi un punto percentuale. Buone performance delle banche, si diceva Bibanca più 1,9%, Popolare Emilia Romagna più 1,88%, Banco Popolare più 1,75%, bene fanno oggi anche Mediaset più 3,75%, Fiat più 2,07%, in fondo al listino Jux che cede il 3,5% e Ferragamo l'1,5%, quindi possiamo dire un po' in generale il lusso. Io ti ringrazio, ringrazio Ciao Condina di Radio Corre Il Sole 24 Ore e vi rimando a fra un paio di minuti circa, parleremo col presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per parlare proprio di Expo, di Mose e di che cosa si può fare per ridurre l'area grigia. Intanto grazie a Ceo Condina, buona giornata. Ciao, buona giornata a voi. In collaborazione con borsaitaliana.it. Sei azionista Acque Potabili? L'offerta sale 1,20 euro ad azione e si prolunga fino al 6 giugno. Aderisci all'offerta pubblica d'acquisto promossa da Sviluppo Idrico. Chiedi alla tua banca. Il documento di offerta è disponibile sui siti internet del gruppo IREN, di SMAT e di Sodali. La capacità attacca, il tasso si chiude in difesa. Veicoli commerciali Opel, capacità massima tasso minimo, 700 soluzioni di carico con un finanziamento speciale. Esempio, Movano tuo con TAN 395 TAEG 584 su opel.it. Sono Egidio, qual è il suo problema? Ah, ecco, sto cercando di capire come diavolo funziona. Scusi, il nostro servizio supporto ai software gestionali si limita a un supporto psicoemotivo, non tecnico. Se no, si chiamerebbe appunto supporto tecnico. La difficoltà d'uso del tuo gestionale è un problema solo tuo? Ora puoi cambiare. Da 35 anni, Team System sviluppa una gamma di innovativi software gestionali per aziende e professionisti, pensando a chi li usa. Semplifica la gestione della tua impresa con Team System. www.teamsystem.com. 100 miliardi di neuroni che in meno di 20 millisecondi si scambiano dati attraverso un reticolo di fibre nervose lungo 160 chilometri. Tutto questo per arrivare a... Mamma, guarda! Sono un drago mangiafuoco! Immaginare è complesso, ma a noi viene naturale, perché le cose semplici sono quelle che funzionano meglio. Con Fineco è così. Tutti i servizi e un consulente per i tuoi investimenti in un unico conto a zero canone. Semplice, come immaginare. Fogli informativi su fineco.it presso i promotori Fineco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Apprendistato, contratti a termine, somministrazione. Il mondo del lavoro è cambiato ancora. Non perdete il filo. Il Sole 24 Ore presenta Jobs Act, la guida più aggiornata per conoscere tutti i cambiamenti in vigore dopo la nuova riforma. Lunedì in edicola a 50 centesimi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'inchiesta sul Mose, l'inchiesta su Expo, tanto si sta parlando in queste ore di repressione da una parte e di controlli dall'altra. Quello di cui vogliamo parlare adesso è prevenzione, ossia come evitare che in queste grandi opere si inserisca un'area grigia, se non addirittura nera. Allora saluto Sergio Santoro, presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno. Vorrei capire questo, se sono stati fatti degli errori, quelli del Mose nella fattispecie probabilmente risalgono a decisamente più di qualche tempo fa, e anche per quanto riguarda l'Expo, proprio nel come viene strutturata come viene strutturato l'appalto, per così dire. Ci può dare un'idea da questo punto di vista? Sì, allora, dunque, per quanto riguarda il Mose, come ha detto Cantone, è più grave, sensibilmente più grave dell'Expo come fattispecie, perché è una concessione unica data nel 1984 e che ad oggi è una concessione che dura da 30 anni ad un soggetto unico, peraltro è un soggetto pubblico, ma un soggetto pubblico che rappresenta di per sé solo una deroga al sistema dell'evidenza pubblica, cioè dell'affidamento degli appalti previa gara, al mercato, ai soggetti migliori, eccetera. Probabilmente chi sta eseguendo il lavoro attualmente è un soggetto qualificato, però non è stato scelto sulla base di una concorrenza di tipo europeo. Per l'Expo il problema è più recente, perché l'Expo è un problema che viene annunciato almeno a livello di normativa nel 2007. Si prefigura un sistema di ampie deroghe alla normativa europea, che peraltro era all'epoca recentissima, perché quel codice che recepiva la normativa europea era del 2006, e lo si fa addirittura escludendo la vigilanza della mia autorità. ammettendo soltanto pochi e isolati sistemi nei quali noi non entravamo, seppure appunto addetti al lavoro di vigilanza. Quindi se rimedio si vuole individuare, il rimedio è non a procedere con deroghe alla normativa, non sottrarre al mercato e alle gare gli appalti, procedere con le regole ordinarie, salvo che non vi siano urgenze motivate da eventi climatici o da altri fatti gravi. Presidente, volevo capire, ma il MOSE ricadeva sotto le vostre competenze oppure no? Il MOSE ricade sotto le competenze, tant'è vero che noi nel 2007 abbiamo segnalato a Governo e Parlamento, nella relazione che abbiamo presentato appunto del Parlamento, la criticità degli interventi per la laguna di Venezia in relazione ai tempi di esecuzione, ai flussi finanziari che non erano stati rispettati e avrebbero compromesso l'esecuzione delle opere. Questo l'abbiamo fatto nella relazione del 2007, che io posso naturalmente trasmettere, e avete, anche sul sito. Avete, Presidente, già allora identificato qualcosa, per così dire, di sospetto? Perché lei ha accennato ai flussi finanziari, questo è un punto interessante. Sì. Questo fu scritto nella relazione dell'allora Presidente Giampaolino, che era il presidente che poi divenne presidente della Corte dei Conti, fu scritto nella relazione diretta al Parlamento e ovviamente segnalava la problematica. Però io le rammento che la legge sul MOSE è una legge molto antica, addirittura dell'84, ed è una legge che contiene un coacervo di deroghe che sono proprio le deroghe addirittura più gravi e più forti rispetto a quelle dell'Expo, perché sono deroghe che attengono allo stesso affidamento dei lavori. Ed è una qualcosa che incombe su Venezia da molti anni. Ci hanno ricordato gli amici del Consiglio Comunale che addirittura col Consorzio Venezia Nuova si fanno le ristrutturazioni dei canali. Adesso, anche il problema delle grandi navi veloci, che è un problema attualissimo, perché è oggetto di esame di critico in questi giorni, è un problema che è stato devoluto all'attività di questo consorzio. Ora, sottrarre al mercato rilevanti fette di lavori è sicuramente una controindicazione, predispone alla corruzione. Quindi quello che è avvenuto è sostanzialmente un esempio di cattiva amministrazione che però, ripeto, dura da 30 anni ininterrottamente. In 20 secondi veramente, Presidente, sì. Dunque ci conferma che di fatto i sospetti c'erano già dal 2007, almeno da quella relazione? Erano sospetti di cattiva amministrazione, cioè di amministrazione non conforme alle regole europee. Quindi non sospetti di illecito, diciamo? No, certamente non sospetti di illecito, perché vede, l'illecito viene accertato con dei mezzi che non sono quelli del controllo della vigilanza. L'illecito viene accertato con le intercettazioni, con i pedinamenti, con i sequestri, con dei mezzi di cui dispone soltanto la magistratura penale. E anzi, va ad onore della magistratura di essere rimasta nella piena indipendenza, tanto da scoprire queste cose che poi coinvolgevano personaggi, ripeto, vicini ai partiti. La ringrazio. Grazie a Sergio Santoro, Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Noi adesso andiamo a chiudere questa parte di Effetto Giorno parlando di musica e di televisione. Quando è apparsa sullo schermo per la prima volta 3 mesi fa, ha fatto parlare il mondo. Ma Suor Cristina ha anche monopolizzato l'attenzione su The Voice. Tant'è che, a poche ore dall'ultima puntata, la conferenza stampa dei finalisti, con lei Giacomo Voli, Tommaso Pini e Giorgia Pino, ha avuto un'organizzazione davvero irrituale. Domande sorteggiate in numero uguale per i 4 ragazzi. Certo è che chiunque vinca, alla fine la curiosità resta tutta per lei. Io credo che quando sono arrivata alla Blind, queste poltrone erano girate, per cui non hanno visto l'abito, hanno ascoltato una voce. Sicuramente c'è stata tanta sete di questo messaggio, che sicuramente è stato accolto alla grande. Non è opera mia, è opera di qualcuno che sta al di sopra. E dopo la finale, Suor Cristina si rimette ai suoi superiori, alle consorelle, e dice: Papa Francesco non mi ha ancora chiamato. Se avessero chiamato a casa era solo per tirarmi le orecchie, ma siccome Papa Francesco parla di un Vangelo di gioia, credo che sono sulla via giusta. Telefonate non ne sono arrivate, e vuol dire che insomma siamo sulla strada giusta.

il tasso di rifinanziamento va allo 0,15%, il tasso sui depositi addirittura meno 0,10%, ha abbassato poi anche il tasso sulle operazioni di emergenza che fa con le banche, ma questa è solo la prima parte degli annunci di oggi, perché poi alle 2.30, alle 14.30 arriverà Mario Draghi per la consueta conferenza stampa e la BCE ha già annunciato che ci saranno altri provvedimenti, altre misure per migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica economica, vuol dire in pratica cercare di far ripartire il credito che in gran parte dell'Eurozona è bloccato. È ancora fermo. Ti ringrazio Alessandro Merli e quindi torneremo a sentirti nell'arco della giornata. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione e a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, scriveteci effetto giorno @radio24.it. A tra poco con GR24. We'll be right back.